Come ogni lunedì parliamo di economia e per farlo siamo al telefono, come sempre, con l'economista Giacomo Bracci, che saluto. Buon pomeriggio, Giacomo. Buon pomeriggio, Alessandro. Allora, la settimana scorsa abbiamo visto un po' delle burrasche nelle borse di tutto il mondo, con dei picchi, poi delle risalite, poi insomma di nuovo delle discese. Cosa sta succedendo e quali sono le cause? Sì, allora c'è stato innanzitutto probabilmente uno dei maggiori crolli dell'indice Dow Jones che abbiamo visto in questi ultimi anni, a cui si è accompagnata anche una esplosione dell'indice VIX, che misura in qualche modo la volatilità e quindi il rischio percepito dagli agenti economici rispetto agli andamenti della borsa. Era da tempo che nel 2017 erano in molti, diciamo, a valutare come eccessiva la crescita continua che c'è stata dell'indice Dow Jones proprio per tutto il 2017, evidenziata per esempio dal fatto che il rapporto tra prezzo delle azioni e utili realizzati spesso dalle società sottostanti stesse continuando a crescere senza meta. Di solito si tratta di grandezze che possono essere elevate per periodi di tempo prolungati, quando ad esempio il mercato sconta in un certo senso il fatto che determinate aziende hanno ampie prospettive di crescita, ma se questo fenomeno è generalizzato e si ripete in qualche modo per lungo tempo, naturalmente la cosa non può continuare. Ed erano in molti, infatti, ad esempio nella newsletter che curiamo come SF Academy da parte di Daniele Della Bona, era stato ripetuto spesso sia a marzo che a novembre che in qualche modo il Dow Jones è di fatto si è configurato nel 2017 come una sorta di bolla. Addirittura la cosa era stata affermata anche da Trump proprio in un suo discorso a fine anno del 2017, e in un certo senso le grandi aspettative, la grande euforia che si era vista sul Dow Jones va ricondotta in qualche modo a grandi aspettative di crescita dell'economia americana, anche in funzione delle promesse elettorali di Trump, di cui peraltro avevamo parlato proprio alla vigilia delle elezioni americane, questa riforma fiscale che avrebbe in qualche modo, secondo molti operatori, dato impulso all'economia e un certo piano di investimenti infrastrutturali. Di tutto questo l'unica cosa che è rimasta è la riforma fiscale e un grande, diciamo, piano di disavanzo da parte dell'amministrazione americana. Tutto questo fa sì che le aspettative di inflazione delle borse, diciamo, che si riscontrano nel mercato crescano, e questo significa che sono in molti in questo momento ad aspettarsi anche un incremento dei tassi di interesse pagati dalle obbligazioni americane. Questo proprio, diciamo, come quadro generale all'inizio dell'anno. Poi c'è stata una modesta risalita del Dow Jones e poi il secondo crollo, chiaramente di entità più piccola, è avvenuto perché in seguito a dati sul mercato del lavoro americano che segnalavano una sorta di segnali di crescita dei salari dopo lungo tempo, diciamo, di stagnazione, hanno fatto sì che il mercato pensasse che, in aggiunta a quello che abbiamo detto, ci sarebbe stata una spinta inflazionistica forte proveniente dai salari, e questa crescita dei salari sarebbe stata trainata dal fatto che i report, diciamo, sull'occupazione erano più favorevoli di quanto gli analisti si aspettassero. In realtà, proprio in seguito al secondo crollo, sono stati molti a pensare che questa crescita di salari sia in realtà sopravvalutata e dovuta soltanto a fattori contingenti legati alla scarsità di certi tipi di competenze in certi settori, soprattutto legati a competenze manageriali. Quello che resta di tutto ciò è però il fatto che la solidità dell'economia americana risulta essere molto inferiore a quanto molti si aspettavano. Questo si intravede, secondo me, da due ragioni. Innanzitutto il fatto che nel 2017 quello che abbiamo visto è stata una crescita dell'economia americana positiva, sostenuta chiaramente ma molto modesta, sostenuta principalmente da consumi, perché sono venuti meno gli investimenti, che peraltro erano gli unici investimenti che sostenevano di fatto l'economia americana a partire dal 2014, in piattaforme di estrazione di shale gas e di sostentamento, diciamo, delle fonti energetiche americane. E l'economia americana era trainata fondamentalmente da consumi legati a spesso incrementi anche di costi di servizi, spesa sanitaria e quant'altro. Questo però si accompagnava a una sostanziale riduzione della propensione a risparmiare da parte delle famiglie americane, e ci sono ad esempio statistiche che ci mostrano come la crescita dei consumi fosse fortemente correlata alla crescita di quel rapporto prezzo e utili di cui parlavamo prima, e quindi da questo si deduce che la crescita del PIL americano era sostenuta da una sorta di effetto ricchezza. Le famiglie e le imprese che detenevano questi titoli titoli azionari si trovavano in tasca più soldi per la crescita del prezzo di queste azioni, ma la base di risparmi più stabile, più solida, con cui questi acquisti venivano finanziati andava a diminuire. E questo chiaramente, seppur si tratta di un fenomeno non critico come il 2007-2008, configura un po' le caratteristiche di una bolla, ed è un po' quello che è successo. Ora, a fronte di questo, in molti si chiedono, ma la Federal Reserve come reagirà di fronte a questo? Non ci sono esempi nella storia in cui, ad esempio, la Federal Reserve non sia intervenuta con politiche espansive a seguito di un crollo della borsa, e questo significa anche che forse le aspettative di molti legate all'incremento dei tassi di interesse nel 2018 vanno riviste, probabilmente perché alla luce di quello che è successo è difficile pensare che la Fed possa alzare i tassi nel breve termine, perché se anche, diciamo, le misure di Trump portassero l'economia americana a crescere, di certo, di fatto, l'effetto non sarebbe visibile immediatamente nell'anno in corso, e quindi di fronte alla possibilità di nuovi crolli, perché comunque il clima è ancora quello di forte instabilità, e a fronte della perdita di capitalizzazione di mercato che si è già vista, è difficile pensare che la Fed possa mantenere la promessa, in un certo senso, che il mercato si aspettava, e quindi continuare ad alzare i tassi. Beh, io non ho nulla da aggiungere, perché come al solito ci ha aiutato a capire cose che magari, anche come vengono presentate sui giornali, non sono facilmente comprensibili. Grazie mille e alla prossima. Grazie a te, alla prossima.